chiamami qua, Roberto. Ero da Gianni, mi sono ritirato un'altra radio, questo è l'Inuiti 294, va bene? A Puglia, aspetti, guardo se sei alto o basso. La regolazione me l'ha fatta Giulio, mi sono ascoltato, va benissimo. Il segnale com'è, buono? Prova, non ho visto il segnale, prova. Guarda, a vedere, 1, 2, 3, 4, anche questo da più di 10 watt. Quasi 9 più 60. 10 volte sto dando, ma l'antenna, Roberto, come ho spostato l'antenna, perché anche tu sei sopra, oltre, sopra il DB sei, capito, col baracchino, più o meno come il K, là. No, la chiara forte, non è distorta, se tra i valori giusti. Sono contento, abbiamo fatto un casino, perché la fretta, capito, poi Gianni, quando si mette in testa una cosa, è proprio, e quindi ha sbagliato due quarti, quando l'ho portato a casa ero sfasato di due canali, allora sono andato dopo pranzo e me l'ha sistemato, è un mago, tutti a memoria li sai i numeri dei quarti. Beato lui. No, io sono più zero, devo andare con le tabelle comunque, quindi ne hai due adesso, cioè quel Polman e questo qua. Sì, ho il Polman 7000 e il 294 della Noite, che sono molto simili, diciamo che questo è un pochino più bellino, perché lo stesso c'ha 5 commutatori, micheghe, tutto modulatore, lo smitter uguale eccetera, la colonnina è quadrata lo stesso, sempre a sinistra, però davanti è tutto cromato, mentre invece quello là è cromato solo sotto dove ci sono i commutatori, capito? Che no, stavo stando benissimo, molto forte la radio, chiaro è forte. Dimmi una cosa, che microfono, più 5? Sempre più 5, Roberto, lo alterno, ne ho uno sul Polman di MB più 5 e uno sull'Inuit, tutte e due MB più 5. No, sta andando alla grande. Sono contento, mi spiace perché si è spaventato, ma che funziona io, ho detto ma non ti preoccupare, sono i quarti, hai sbagliato mettendo i quarti, con la fretta, è stato sino alle 3 di notte, poveraccio, facendo questa radio, infatti mi sono adirato, ho detto ma non c'era bisogno, no, non è che quando fa una cosa la faccio subito, e con la stanchezza ho invertito gli ultimi 4 quarti, e quindi mi spostava di 2 canali meno, capito? Adesso è perfetto. Ma con chi stai parlando, Prato? Con Roberto Rotondo. Faccio la propagazione a più di lui, non riesco a sentirlo. Ciao Roberto, ti ascolto. Ciao Tino, ben sentito, no, io già ti ascolto forte e chiaro. Con la propagazione a 9.10, 9.20. Cosa stavo dicendo, Cla? Come hai fatto a ritracciarlo? Claudio, dai, è inutile fare così, non riesco a modulare, quando non c'è questa barana qua non fa bene, dai, ci sentiamo, ciao, divertitevela. No, intanto sto andando a mangiare, stavo solo facendo una prova e ho risposto a Roberto. Anche qua è alto, però tu, grazie a Dio, già lo superi il QRM, e a me mi ascolti? O sono anch'io in mezzo al QRM? No, tu sei quasi sul 30, diciamo che ci manca poco arrivare al 30. Va bene, va bene. No, Roberto non lo sento per niente, proprio ciò. Qui 9.10, 9.15 di propagazione. E anch'io c'ho un sacco di propagazione, dai. Va bene Tino, intanto sto chiudendo anch'io con la cena. Ci sentiamo magari più tardi, dai. Cosa sta dicendo Roberto? Come hai fatto a ritracciarlo? Sono riuscito, anzi no, mi ha chiamato lui la verità, è la parola, ma è tassa combinato, e subito si è spaventato. Ha detto che è successo, ha detto così, no, che portamolo subito che devo aver fatto qualche errore, capito, perché è uscito fuori a telefonarmi. E niente, gliel'ho portato e mi ha invertito gli ultimi 4 quarti, dai. Però li sa a memoria, cazzo, li conosce tutti a memoria, sigla per sigla, cioè le cose le metterci le mani io. Vabbè, chissà, anzi, no, ne ha cambiato lui. Ok, ma non c'è nessun altro qua, là. No, c'è un bel propagazione, però io non ho sentito nessuno, roba, stavo mettendo un po' a posto qua. No, sono arrivato adesso, stavo facendo cosa, sono andato ad accompagnare un amico. E cosa volevo dire? Stavo guardando i risultati, il Cagliari 0-0 sta facendo. Buono, Cagliari 0-0 è ottimo. Sarà stato attento, meno male che hanno perso le altre inseguitrici, se no 32 punti non sei salvo, devi arrivare almeno a 38-40 per avere la certezza. Ma Zenga già lo salva il Cagliari, non ti preoccupare. A pensare che le prime 10 partite è arrivato anche terzo in classifica. Non so, poi si sono un po' cagati addosso, se vuoi ti dici. E io. Senti gli spagnoli, più di 9 sono. Già li sento, sì. Un bel forte sono, maledizione. Sono segnali locali, più di 9 sono, stanno arrivando qua. È un bel forte, già li sento, sì. Ma a te poi c'hai, Cla, che faccio? Mi dici, questa radio col gemello più povero, se è più alta una o più alta l'altra? Vai, che ti sto ascoltando con l'SP430, prova, vai. Allora, memorizza questa modulazione, 1, 2, 3, prova, adesso ti attacco l'altra e mi dici, così la facciamo allo stesso livello. Va bene. Ci sei, Cla? Sì, sono qua. Questa è l'altra, 1, 2, 3, prova, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questo va bene anche questo, non c'è problema. No, quello come intensità di microfono, che è più alta, questa o l'altra? Ma diciamo come tonalità mi sembra un po' più alta questa. Ma questa la voglio fare tutte e due uguali. Adesso ti sei sporcato, cos'è toccato? Non cazzo, non cazzo, senta questo rumore strano, è cazzo. Infatti c'è un rumore strano sotto. Adesso è a posto, dai, forse adesso è tutto a posto, dai. Sì, adesso sì. Forse non stavo premendo bene il coso. Il PTT. Rumore di sotto non c'è niente, pulita la portante. Così sì, però rilevo appena appena di alternata. Cos'è? Cosa c'hai vicino? Non lo so, che sta a dire qua, tensione, tutto uguale, boh. Adesso dovrebbe essere a posto. Sì, adesso è a posto. Comunque è uguale all'altra come radio di qualità, parliamo di, o noti differenze di tonalità? No, uguale all'altra, roba, non cambia niente. Va bene, dai. No, ogni tanto bisogna farle girare, anche se non mi piace a me questa radio, però poi come scalda sale anche un po' più di potenza, ho notato questa, al contrario di quello più grande. Sì, beh, quello è il problema, è i due convertitori, capito? L'altro K è 3 convertitori. A 2 conversioni è un casino, perché devi far scaldare, poi più va, sale, infatti è una rottura di balle quella lì, è una rottura di balle, guarda, sennò io lo chiamo baracchino sintonia continua. Sì, già lo so, è stato bene, poco più di un baracchino. Rumoroso, con questi slider, queste cose, cazzo, l'hanno fatto malissimo, però come dice il trasmettitore, per la 27 va bene, capito? Sì, di radio esce, però è molto rumoroso rispetto all'altro, un bel. Ah, rumoroso, ma te l'ho detto, sembra un baracchino, anzi, sono baracchini che vanno meglio di quello. Ma la immagino. Vabbè, io ti saluto e pronto la cena, ok, se coincide ci facciamo due chiacchiere dopo, altrimenti niente. Quindi confermato, come mi hanno detto tutti, lascio tutto così e questo è un ottimo rice trasmettitore vintage anche questo, dai. No, sta uscendo bene, è molto chiara. Ok, dai, buona cena, buon tutto, se poi ci sono ci sentiamo più tardi, se no eventualmente se passi, solito passeggiata la mattina, dai, ciao Cla, buon tutto. Ciao Robert, grazie del controllo, ciao anche a Tino, ciao a tutti, ciao. Hola. Ora. Ora. Hola, sessione 10, c'è qualcuno? Chi è che chiama su 10? Ora. Attento compagno, se scucci l'Italia che va chiamando. Attention please, do you copy Italy, Sardinia Island, operatore Roberto. What's your name please? Good evening my friend, my name is Roberto, città di Sassari, nord Sardinia, Sardinia Island. And radio Così viene my friend from Bavaria, Bavaria Germany. Tuo signal, your signal is Santiago de Nine, Radio 4. Your condition for transmission, my friend. Ok, questo è anche il segnale Santiago 9 for radio, radio 5. Grüezi dich, mein Freund. Hallo aus Bavaria. Tuo transmission, please. Your condition di transmission. Free for you, my friend. Bye bye. Ciao ciao. C'è qualcuno su 10? Hola, sezione 10, c'è qualcuno? Sono io che sto cercando la pizza. Ma questa è un'antenna nuova. Sono in garage che stavo cercando delle viti, infatti. Ma è palo molto alto. No, il palo sono 5 metri di palo. Vediamo poi come va, eh. E comunque, per dirti, vabbè, praticamente, cos'è che ti volevo dire? È più alta dell'antenna come adesso, quindi dovrei sparare un pochino di più. E l'ho messa sulla casetta sull'albero, comunque. Sulla casetta sull'albero? Guarda, le casette sull'albero. Ho capito, però non è che ti disturba l'albero. No, abbiamo portato tutto. Allora, vediamo bene, speriamo bene. Quanto supera l'albero? Quanto è alto l'albero? No, di quanto lo superi l'albero? Ah, io lo supero di 50 centimetri alto dal tetto fino a su. L'altezza totale dell'albero non la so. No, non mi sono spiegato. L'antenna quanto è più alta dell'albero? L'antenna quanto è più alta dell'albero? 7 metri. È più alta di 6,50 metri. Cioè la base dell'antenna è a 6 metri più alta dell'albero. L'albero è proprio basso, ho messo l'antenna, abbiamo portato tutto, se mi sono spiegato. Non ti ho capito, io volevo capire se la base dell'antenna dove ci sono i radiali a che distanza è dalla punta più alta dell'albero? Dall'albero i radiali, cosa sono? 20-30 centimetri. 20-30 centimetri, dall'albero? I rami dell'albero ad arrivare all'altezza dei radiali c'è un distacco di 20-30 centimetri. Ma non va bene così, adesso proviamo, ma non va assolutamente bene. Proviamo, aspetta che vi porto questa chiave. Eia. No, non stavo riconosciuto. Com'è la radio? La radio è forte, a parte il discorso del riverbero, che a me non piace, però la radio è chiara. No, l'ho tolta infatti. 1, 2, 3. Sì. Ma male che non innesca, dai. Ma che microfono sta utilizzando? Sempre quello, Tarle più 3B da tavolo, quello grigio. Se ogni tanto cambi apparati, adesso non t'avevo riconosciuto perché sono abituato a sentirti con la radio, no, già è forte. Oh, già va bene, dai. E di che tempo uscivo così? Negli anni 80 che furono? La radio invece cos'è? Sempre Saturno. Ma questo qua, quello, come si chiama, tuo nipote Emanuele, ce n'è uguale uno lui o è sempre questo? No, ce n'è anche un lui, uno uguale, l'ha comprato a Gio Maria. Ma lo sta vendendo? L'ha messo su, ho visto su Facebook, 500 euro. Ma tutti e due gli apparati stanno vendendo 500 euro? Ce l'ho tanti io, due apparati, ce n'ho uno solo. 500 è tanto, oh, vabbè, se ha Ciapparumacco che se lo compra. Infatti, anche a me mi sembra troppo eccessivo come prezzo. Guarda, il mio è immacolato, ma è toccato e poi il suo è modificato. Io l'ho pagato 200. Penso è così, più o meno attorno a 200 euro, se è proprio perfetto, perfetto. Anche 250, ma poi aggiungi qualcosa e ti compri un apparato HF. Allora. Vabbè, vedo così. Lui compra per vendere, ha detto, andare, non te l'hai appena comprato, E l'altro che c'è sopra è il Multicom, uguale al mio, cosa c'ha quello? Quello c'ha dei problemi a quanto pare, quello come alimentazione va male, capito? Quello è un grande apparato, magari non uscirà bene di radio come Saturneco, vuole toccato per farlo uscire meglio, c'è una modifica, però come ricezione è una bomba. C'è un attimo pure lì. Adelante il Greco. Ok, ciao a tutti, Alfa 21 a questa parte dalla postazione nuova. Buona giornata. Ciao Riccardino. Ciao Riccardino. Alfa 21, 48, 54, giocate nel lotto. Ciao a tutti, ciao Tonino e ciao Roberto. Se mi potete dare un controllo di radio e anche di segnale, se ho migliorato anche un pochino. Per me sei sempre fotoscala, radio buona, 5. Riccardo sembra un peluzzino più alto rispetto al solito, la radio vabbè, sempre uguale, sempre buona, forte e chiara. Il segnale sembrerebbe, adesso bisogna vedere se sono le stesse condizioni di apparato che ho sentito l'altro giorno, leggermente un peluzzino più forte. No, aspettate, vi spiego, perché adesso c'è l'antenna un pochino più alta. Comunque vi ringrazio se sto andando bene e comunque sto usando il baracchino, sto usando il Colt. Adesso inizio a portare un altro po' di apparati dentro, che così faccio la prova se vanno bene qui in stazione. Ehi, tu dovresti fare per vedere se rende più una o l'altra di antenna, prendere il Colt e provarlo nell'altra stazione. Io ti dico se va più forte è uno, perché bisogna fare a parità di apparecchio. Comunque, se ve lo dico, sto uscendo dalla casa sull'albero perché mi sono fatto una postazione qui quando d'estate sulla casa sull'albero, adesso sto parlando dalla casa sull'albero, oppure se quando voglio stare al caldo dentro mi porto il cavo dentro, capito? Adesso però sto parlando dalla casa sull'albero. Mi stai portando un rumore appresso. Scusate, è questo baracchino che mi stava dando un problema già da prima, lo so. Comunque adesso provo a cambiare apparato e mi sistemo e ritorno subito. Ma già è coperta questa casa sull'albero? Sì, è coperto tutto, va benissimo, si sta di un bene qui. Mi devo mettere, organizzare, mi metto l'amaca e dormo qui anche per fare gli ex. E adesso devo prepararmi la tutta anche qui, così ho tre stazioni, tre bunker. Micidiale, Riccardo, troppo toba. Avanti, Tony. Capo, ha detto così dormo qui e faccio il DX, ma se dormi non ne puoi fare il DX, Riccardo. Forse non ci siamo capiti, che dormo qui, faccio il DX e poi dormo qui, non vado a dormire dentro casa se non ho gana di entrare dentro, resto qui a dormire. Ho capito, anzi che prendi la cariola, non la prendi, rimane lì, ti fai il DX e poi fai la nana lì. Senta le pipistrelle, Riccardo, quella notte. Qualcuno capisce ancora, vabbè, sto scherzando. E adesso niente, cambio di nuovo baracchino e ci sentiamo subito, che così sposto qualche cosina dentro. Non tutto, perché sennò poi adesso non userò più la carriera, ma userò il secchio per fare scendere gli apparati dal piano di sopra, perché sono al secondo piano. Figurati. Micidiale, Riccardo, è troppo esagerato. Adesso c'è la stazione sull'albero. E poi si mette a montacarichi per fare i baracchini. Ma io ci sono andato a casa sua, c'è una specie di funivia, Tony, tipo un gioco, che c'è una cima che ti aggancia e scendi, tipo quei giochi che si usavano ai tempi antichi, tipo uno scivolo, però che ti agganci, c'è un cavo d'acciaio e lui si fa scendere giù per una ventina di metri. E lì c'è la casetta sull'albero e ci ha messo tutto, guarda, troppo tolgo. Spiega, c'è se il posto di farlo. È un albero consistente, va bene, dai. No, già penso che vada bene, magari ogni volta a trasferire la roba non so quanto convenga. Sì, ma se è coperto va bene, dove è lui, capito? Perché l'umidità fa male a questi apparati. Già lo so, infatti per quello gli ho detto, speriamo bene, vabbè dai, meglio di niente, dai, almeno si diverte il ragazzo. Ok, facciamo una chiamata generale sul 10, se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprendi tutto Nino. Avanti sul 10. Entrare adesso la scala perché si è rotto un gradino, perché praticamente l'umidità, questa scala c'è, ha resistito 30 anni e non ce l'ha fatta più, quindi adesso devo cambiare anche quella. Vabbè, ti ha ucciso. Non me lo immaginate, infatti a te ti arriverà la bomba. Ecchia, fondo scala. È più forte che te arriva lui, di tutti quelli, diciamo, di città. Sì, c'è lui, poi dopo di lui viene Leoncino, Gianni, poi viene Claudio. E coso, è Luca. Oh, Luca è 9:20. Ma Luca arriva più forte di me probabilmente, di lì, no? Prova. Ora, 1, 2, 3, prova radio. Siete più o meno lì, lì per lì. Separate tutti e due, non so se riesco a capire qualcosa. Oggi non mi sentivo attino, c'era la propagazione talmente forte, cioè stavamo parlando con Claudio, ha detto Claudio con chi stai parlando? E Claudio ha detto con Roberto, no, non riesco a sentirlo perché c'è la propagazione a 9:20. Poco fa era 7:09 la propagazione. Scusate, mi assenti un attimo che prendo altri apparati, non mi rilanciate, arrivo subito, con una scheggia. Stai attento a non cadere all'albero, Riccardo, mi raccomando, massima attenzione e illumina bene la zona, ossia che poi magari inciampi, che dici se ne cade all'albero è pericoloso. Io mi sto facendo qualche lavoretto a conto mio invece, qua vicino all'altra villa. Ma io non ho capito esattamente dove sei tu, Tony, non mi dire proprio il particolare, tu stai andando verso il sorso, lassù però la statua di San Camillo o prima sei tu? Un po' prima. Ma quelle case che ci sono a destra, quella specie di viale lungo prima di San Camillo? No, tu non puoi mai vedere la casa mia, a meno che sali con l'elicottero. Perché di lì abitava un amico mio, Rice, quelli che vendono frutta. Quello che c'ha per caso in Giovanni Pascoli vicino all'edicola. No, no. Ah, sì, anche lì mi sembra che vengono. Sono ambulanti loro, però. Sì, Mauro, quello zoppo. No, no, no, non si chiama Mauro. No, perché lui veniva, passava spesso sulla strada e mi portava anche la frutta. No. Allora, tu mi hai detto sei prima di San Camillo, così. Capa. E non si gira a destra per andare in campagna tua, dove si gira? A destra o a sinistra? Andando verso il sorso. Sinistra. A destra. Sinistra. Ah no, allora io sto dicendo dall'altra parte, però sinistra, perché io sono la campagna, a San Camillo si entra dove c'è la statua, dove c'è il coso delle galline, delle uova, te lo ricordi di uova d'oro? Capa. Poi prosegui di lì per un chilometro e mezzo, entri di lì all'interno, c'è la campagna. In linea d'aria, magari se fai la troncatura sarà 500 metri, però per arrivare in campagna mia devi fare tutto quel giro, un paio di cose, di curve, e poi ci arriva. Quindi tu sei a sinistra, aspetta dove però. Tu fai la salita dove c'è quel muraglione grande, così. Cappa. Lo supero e poi giro a sinistra. E che strada c'è di lì a sinistra? Boh, non ce l'ho presente. No, tu sei già quel muro e ci metti a matto di contenimento, quello che non è grande. Quello lì. No, devi salire molto più su ancora. Aspetta un attimino. Ma non entro io dove c'è la statua? A sinistra dove c'è la statua? Bravo, entri dove c'è la statua. Ah, sì, anche io di lì entro. Per andare in campagna mia entro di lì. Giro a sinistra, tu sei prima del campo del calcio, dove c'è la chiesa San Giacomo, proseguo di lì a Madre Pedrosa. No, io vado giù, non giro a destra per verso la chiesa. A sinistra c'è un'altra stradina, poi ancora più giù a sinistra c'è un'altra strada più asfaltata. E lì c'è il campo del calcio, c'è mio cugino. Infatti lo sento quando gioco la pallone. Ma tu sei vicino al campo di calcetto? E lì all'aria, penso di sì. Mio cugino c'è, ho capito. È verso quella parte, però più a sinistra ci abita, vabbè, mio cognato non abita più, perché adesso si è trasferito con mia sorella, però abitavano di lì, quelli che c'avevano l'officina di moto, Muritto. Tu che sono in alto mi parlo me. E dici tu spari bene verso il mare quella zona lì. Ma non ti credo, perché io a Uginio lo ascolto basso. Non ho capito. A Uginio lo ascolto basso. Ah, addirittura, come mai? Perché vuol dire che è un po' negativo quella zona. A meno che Eugenio c'ha un'antenna proprio buca mare, non lo so. Ma Eugenio qua arriva a più di 9. No, allora, arriva a 7,5 Eugenio qua. Mentre tu sei aperto per Castelsardo, Badesi, quelle zone lì? Non ho mai sentito nessuno quella zona fino adesso. Io sento forte Muros, e poi chi sento? Itiri, forte, 9. Ah, quindi c'è un'apertura diversa, tu forse c'è qualche canalone, perché sono quelle zone lì molte volte sono scoperte per coso, per... Alghero lo ascolti? Sì, Alghero ascolto basso però. E Riccardo invece ti arriva a bomba, vabbè, lui è molto aperto per la zona tua. Fanno scala, mi arriva, è forte. Eia, ok. Tu invece sei in zona, mi hai detto? Zona stadio sono, quadrato. Ti arrivo bene, sì? Sì, a Vuglia, sei quasi 9:20. Ecco. Andrà bene, io vedo però quando passo, diciamo, a strada centrale di Sant'Orsola, sopra il mar, che c'è anche un paio sono arrivato sotto, tante antenne, dica so. Comunque stavo guardando male, sei più di 9:20, tu sei 9:20 con i picchi arrivi oltre 9:20, e a me io quando ti arrivo? Ti... Prova. Ola. 9:20 è montante. Mi hai detto a Sant'Orsola ci sono delle antenne, dove stai dicendo? Alla via centrale praticamente. Se tu dunque passi l'incrocio che ti porta fino alla Buteburi, continui ad andare dritto sulla sinistra, praticamente vedi c'è un mar che fa dei gradini che sali e su, e in alto solo col palazzo c'è due o tre antenne, ci sarò. Non lo so, non è che sia molto pratico il Sant'Orsola, raramente ci vado, però non ce li ho presenti. Ciao, sono le antenne di EBO, io siete EBO. Ciao Fabri, ben sentito. Ciao Fabri. Ciao a tutti. E chiedimi il nome, il nominativo, non si tratta del cognome, com'è il nome? È Antonio Achille, non c'è problema, ti ho detto il nominativo, quindi io siete EBO e sono di Antonio, ex presidente dell'ARI, adesso sono io presidente, ma era sino all'anno scorso lui. Vabbè, ma scusa, ma non era Monteoro Antonio? Forse prima quando era sposato, poi non lo so. Ah, boh, non lo so, io ero convintissimo fosse a Monteoro, io lo conoscevo sempre, Antonio Monteoro. Non lo so, io lo conosco da 10 anni ed è lì. Ascolta, come sto dicendo che sto terminando questo 440? Ma di radio o di segnale? Segnale non mi interessa, lo so che è forte, di radio. Ah, no, sta facendo bene, benissimo Fabrizio. Anche da questa parte, buono. Confermo anche io, stai uscendo benissimo adesso con questo 440. E io adesso, dopo se ci sei ancora ti faccio, adesso sto andando nel, dove ho piazzato l'altra antenna, perché sono ancora in garage perché stavo prendendo un alimentatore. Ok, dai, io sono qua un altro po' che devo piazzare un condensatorino per eliminare un disturbo e poi faccio la prova col condensatorino e ci sentiamo fra un po', devo fare un lavoro, sollevare una scheda. No, va benissimo, pulita, chiara la radio, Fabri ottima. Ok, vai Tonino. Kappa, no, già va bene comunque, perfetto. 9:26 all'incirca da di qua. Bene, sì, ha cambiato il nuovo Ricaldì, il baracchino. No, era nel garage, è andato a prendere attrezzi. E aveva il bife finale, ho ritardo già un vecchio pezzino, via. Però è leggermente più basso con la postazione, lo sai, quasi 5 punti, poco meno di 5 ne perde. Un attimo, ce l'ho abbasso un secondo. Fabri, una domanda, quanto gliene stai dando con quel 44? Adesso non ci ha attaccato lo strumento. Un po'. Perché qua stai arrivando molto ma molto forte. In genere di meno, aspetta abbassi un po'. Adesso credo 10 e gli altri modulati. Da 9:50 sei salito a 9:40, poi picchi arrivi a 9:50. Allora, vediamo così invece come sta arrivando. Adesso sei salito 9,50 spaccato, più c'hai picchi positivi. Vabbè, la sta andando molto bene questa radio. L'unico problema è che c'è un fruscio in ascolto, ma lì un condensatore. Aspetta che si riesca a fare questo, ho risolto il problema. Però devo fare un paio di saldature e qui ci sentiamo. Ehi, un'ultima domanda, ma che antenna sta utilizzando, Fabio? Sempre la stella. Una bomba, considerando che sei abbastanza lontano, sta andando una grande, un segnale è uno dei più forti in assoluto. Ok. Io ce l'ho su a 12 metri sul traliccio. No, arrivi fortissimo. Solo a livelli tuoi ci sono solo Claudio e Pompugno, nessun altro arriva così forte. Poi quando Fabio si mette l'antenna non ce ne sarà più per nessuno. Riccardi! Ehi, un attimo che sto mettendo l'alimentatore! Ricca, che quante ne stai portando di alimentatori, Ricca? Perché avevo già portato uno e non va bene perché ha l'attacco alla presa a 3 e mi serve uno con la presa a 2. Infatti sono riandato e ho preso quello pesante, non quello switching l'altro. Ehi, stai attento, mi raccomando, quando ti arrampichi stai molto attento, sempre in sicurezza. Ehi, adesso aspetta un attimo che lo collego, così ho finito e posso parlare tranquillamente, perché voglio provare l'SBA, il baracchino. Una bomba, il segnale hai guadagnato quasi 5 punti, Riccardi. Vabbè, siamo più in alto di qualche metro, e così ed è per questo. Ma adesso attacco l'alimentatore e mi dai un controllo di segnale, dai. Ok, ma l'antenna è identica a quella che avevi prima? Sì, positivo, quella mi piaceva molto, come andava, di prestazioni, e quindi ho comprato la stessa. E ne ho una in garage e una qui. Fatto bene, dai, due postazioni non si sa mai, così ti puoi spostare quando c'è brutto tempo, te ne vai dall'altra parte e poi ti fai la derivazione e te la porti dentro casa per l'inverno. Qua è tutto a posto. Sono tornato. Ehi. Cosa è successo? No, nulla, c'era Riccardino che ha cambiato l'alimentatore, dice che quello lì c'aveva l'attacco a 2, l'altro voleva a 3, non ho capito bene, forse la spina, l'innesto della spina probabilmente non aveva il centrale, buh. Ui. Ma c'ha bisogno di ogni giorno di portarsi tanti apparati, bastava uno solo? Allora anche io, tieniti la postazione, una principale, e ti metti le cose più interessanti, e poi le altre ti metti, ti chiamo di servizio, postazione di servizio. Ma io forse che lui avrebbe fatto un bel commutatore d'antenna, quando aveva voluto modulare la garage, modulo antenna 1, anche cioè postazione 1, baracchino 1, avete modulo la garage, 2 sull'albero, 3 in camera, capito? Una cosa del genere avrei fatto. C'è da dire che il garage è molto lontano, sarà più di 50 metri dalla casa, poi deve entrare nella stanza, ci vorranno 60 metri di cavo, minimo. Vabbè, un RG 213 a meno dispersione. Brecco. Adesso sei più basso, dove sei, Rica? Vabbè, sto usando il baracchino ed è per questo è meno basso. L'altro che cos'era che stavo usando qui? Prima stavo usando il Colt con la mia DP5, adesso sto usando l'SBA con il Tarrant Q3. Comunque però la radio è buona, ti piace? C'è un leggero ronzio di alternata. Io ho preso l'alimentatore vicino, non ho molto cavo a disposizione. Aspetta, Riccardi. Cosa c'è, Tonino? Ma il baracchino è SBE? Sì, SBE. Per caso quello 69 canale? Quello 23 sotto, 23 normale, 23 alti, l'SBE. Non ho capito, che cosa hai detto? Scusa, Tony. Se hai l'SBE, 69 canali. No, non è 69 canali, è 80 canali. Perché io conosco quello l'SBE, negli anni 80, un signor baracchino aveva 23 sotto, 23 normale, 23 alti. No, questo è l'SBE SA 2800 con 80 canali AMSB. No, questo sono AM. E c'è la mia zia ancora, non parla più al baracchino da parecchio e non lo vuole neanche vendere. E vabbè. Ma base, Tony? No, veicolare. Quello tuo è veicolare o base, Ricca? Ricca? Scusa, perché si è staccato, devo mettere bene il film dell'alimentazione, perché si era staccato e si era spento, così quando si stacca dall'alimentazione va a canale 1, e quindi stavo girando fino ad arrivare a canale 10, che cosa avete detto? Scusate, non ho capito. E la 43 non lo puoi utilizzare con la stazione? Già lo posso utilizzare, lo devo portare, infatti adesso devo provare a vedere anche come vado con l'Alan, visto che potrei mettere, vediamo adesso come va, provo a portarlo alle 43 e vediamo come va. Questo è un po' ronzio, cioè, non mi piace, cioè la radio è chiara, pulita, però c'è questo rumore di sottofondo, era meglio l'altro, quel Colt che c'avevi prima o cos'era. No, mi sa che non lo porto neanche per non fare presentazioni, se andava bene il Colt, era stato il Colt. Rispetto a questo sì, era più chiara, anche se questa è bella la radio, niente da dire, però questo c'è un ronzio di alternata sotto, quell'altro era più pulito e un po' più alto di segnale. Avanti Tony. Aspetti, no. Mi hanno chiamato alla bassa, un attimino. Ok, prego. Ok, Riccardi, cosa hai detto? Comunque dice sei il più forte di tutti, Tonino ha detto, Riccardi, lo sai come segnale. Attenzione, canale 10, mi ascoltate? Ehi, questo è la Tara? Sì, questo no, è di nuovo il Colt. Questa è la più bella di quelle due, questa è molto più bella, più chiara, più pulita, anche se l'altra era chiara lo stesso. K, lo so, questa esce con... cos'è, un pochino di watt in più, è per questo che stava uscendo meglio, però lo so che la radio è migliore con quello, che stava uscendo meglio con di radio con l'SDE, però questo è il più forte il segnale. Sì, si vede anche da qua, sei più forte. Cosa stavo dicendo, Riccardi? Ma c'è anche strumenti per misurare le trazionali vicino? Sì, adesso voglio attaccare, ho un HP1000 della ZG, niente di eccezionale, però potrei provare. Verificate tutto, le verificate prima di collegarti agli apparati, visto che hai messo l'antenna nuova? Sì, ho controllato, è perfetta. Meno male, dai, che non ci sono problemi, perché molte volte quando la tieni troppo vicino a un elemento, in questo caso l'albero, ti può creare dei rientri. Lo so, no, invece è perfetta, pensavo che andava male, perché tipo proprio ieri quando stavo uscendo dalla cellula era tutto arrondito, deve essere perché avevo l'antenna vicino, invece io ce l'ho vicino e sta andando bene. Ma volendo ti potresti anche attaccare, potresti anche trasmettere dalla cellula, no? Ti allunghi il cavo e te lo butti nella cellula. Sì, potrei fare anche così. Per dire in situazioni di pioggia, di emergenza, ti porti il cavo dentro e te ne trasmetti da lì. Va bene, sono entrato all'inizio per un controllo, spero di risentirmi più tardi, perché vado a fare caricabatterie, così anche mi devo installare una luce qui nella casetta, perché sennò non vedo niente, sono al buio. Perché da quanto è che non ci salivo, oggi ho dato una pulizia, ho installato l'antenna e niente. Adesso prendo anche una luce di quelle a neon. Mi raccomando, attento alla corrente elettrica e attento sulle posizioni dove poggi i piedi, perché se devi scendere o salire di notte è un po' pericoloso, mi raccomando, massima attenzione. Ok, vediamo, Tonino, a te il mic. Ok, buon carica batteria, allora il signore mangia Riccardino, ok. Ok, ci sentiamo dopo, siamo qua, Riccardino, avanti, vabbè. Vabbè, non è che mi trattengo molto più di tanto. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro nel frattempo. Sul 10, avanti, chi vuole entrare? Scusate, comunque saluto a tutti, anche voi, buona carità se l'avete già fatta. Tonino, ti ho accettato l'amicizia, così ti sei messo il cuore in pace? Io sempre in pace il cuore, dai. No, mi fa piacere, grazie, non c'è problema. Hai visto la foto mia, sì? Sì, l'ho visto chi sei. Sono un bravo ragazzo, di la verità. È un bravo ragazzo, tu fuori di testa, no? Bisogna stare attenti con me, tutto qua. Chi fa da bravo ottiene sempre del bene a me. Yada, vi saluto che ora mangiare e il piatto aspetta per voi. Dai, mangia, dai, se no poi si fa tanti. Ok, buona carica Riccardo, dai. Ok, Fabri, hai tu risolto? Non so, credo che sia... così diminuisce, così aumenta, sì, giusto. No, c'è un piccolo problema che devo risolvere. Sì, è un piccolo problema. Cazzo, sale tantissimo il segnale comunque, America, Fabri, voglio dire. Da così... A così ovviamente sarei parecchio, però tutto positivo e questo è buono. Vabbè. Più di 10 punti, da 9,40 sale a oltre 9,50. Devo risolvere solo un problema, perché ascolta, così vabbè, non sta cambiando, vero? Niente, è sempre buona la modulazione, sì. No, perfetto, non cambia assolutamente niente, è pulita e chiara. E c'è qualche piccolo problema di massa, non riesco a capire, dovrei avere un altro MC60 per vedere se non è il microfono. Luca, io ti ascolto perfettamente. Ok, vai Tony, quando ti arriva Fabrizio a te, Riccardo? Riccardo, oggi gioco in bilanco Tony. La 920 è salita 9.30. Figurati. Insomma, devo capire che era veramente massacrato quell'apparato. C'ha una bella resa con l'antenna. Che antenna hai? Come? Ciao Fabrizio, che antenna? Non me lo ricordo, me l'ha detto, però non me lo ricordo. Una stella. Dai, buona, dai. Dai, riprendi Robert, che proseguo qua, che tanto devo anche andare a letto. Non c'è problema. Cosa vuole voi domani mattina presto, quindi di lavoro, Fabrizio? Sì, domani devo uscire presto, poi se ce la faccio passo a prendermi quella roba, eh? Non ha importanza. Quando vuoi, è sempre a disposizione. Ok, Tony, a te il mic. Ok. Boh, con X non molto deve essere il boh, carico batteria, stai facendo Fabrizio, non lo so, ho capito che ti stai spostando. Giusto Fabrizio? No, sono qua che ho rimesso a posto questa radio. Voglio che esca, è l'unico piccolo problema, un piccolo innesco sull'altoparlante. Mai fatto, me l'avevano. Vabbè, come 3-4 ho trovato su questa radio, dai, ci sto lavorando, ce l'ho trovo, non c'è problema. Lo troviamo. E poi vediamo un attimino, dai, perché mi viene il dubbio che sia un problema anche di microfono, se il microfono l'avevo modificato con degli disaccoppiatori, ma non credo però. Va bene, proseguo altri mezz'oretta e poi me ne vado a Ninna, dai, proseguite, già vi ascolto, però se mi serve qualche controllo già busso. Comunque la radio è perfetta, La radio è perfetta, ma c'è un problemino di massa, però non è che ho voglia di buttare giù un po' di roba, no? Non ne ho voglia, è un po', potrebbe essere un problemino. Sì, ma ho qualche condensatorino, devo seguirmi la catena BF, dai, devo seguirmela e vedere un po'. Vado. Ok, ripetilo bene. Via. Oggi bocca gente, tutti in letargo, sono orecchio di porco, come diceva uno. Sì, più duro ce n'è in ascolto. Quello è normale, fa un meme. Con quello cibitocco c'è di bello che puoi vedere chi sta ascoltando. Qua purtroppo no, non c'è l'applicazione. Peccato, grazie. Erbe anni il servizio. Sarebbe stato bello mio. Vedere chi è. O quelli che mettono la portante. Chi è che vuole entrare? Oh, guarda. Male non c'è, hai sbagliato il canale, troppo piccolino. Chi era? Perché non ho sentito. Non è più perso niente Roberto, fregatene. Qua che simpatico. Allora, ma senti con sette, ma con quello di Corica, ma. Ho capito dove è il tuo trabacco, eh. Hai capito? Sì. Ma sei mai capitato perché nella mia officina? No, io sono preso per caso lì, sapevo già il tuo cognome, quindi. È già un nome comune, diciamo, di cose, non è un cognome finto, diciamo, c'ha un significato il mio cognome. E si usa in tante cose. Lo so. Parlando qualche duro mi ha detto il nome e cognome tuo, ma è uscito così, capito? Che avevi zona eccetera, dove sì. E molto passato, ho visto l'insegna, ho capito che eri tu. Vabbè. No, per vanta già siamo abbastanza conosciuti, dai. Non bisogna mai vantarsi, però già ci conoscono nel nostro ambito. E cappa. Bene, Meta, andare. Cosa volevo dire? Io si aspettava Fabio a vedere se è arrivato quel pezzo, gara. Roba di riparazione. Eia. E già ha detto, già è bravino, io ho dato a lui, sono già un paio di settimane sempre. Ma ripara il baracchino o altro? No, il baracchino. E io. Praticamente il gemello quello che c'ha Ginko, Manuele, mio figlioccio. Quello che c'ha sotto il Galaxy. Che apparatore, non ho capito. Ma io non ce l'ho lui, e quello che c'ha Gio Maria, c'ha lo smitter, la tratta grande, lo smitter, qui c'è il frequenzimetro, è un 40 gradi, lui c'ha le SSMI, il mio invece solo AM. Ma stai parlando di un veicolare o un balzo? Ma guarda, ti dirò, veramente, non lo ricordo più perché l'ho avuto pochissimo qua in casa e subito l'ho portato a farlo vedere aggiustare. No, praticamente non aveva ricezione. Ma stai dicendo quello Wagner, col baracchino Wagner? E quello grigio. Quello lì fai? Sì, ti ho detto che poco fa fece la chia uguale. Aspetta un attimino, quel baracchino che sta riparando coso, quello Wagner, che lo fa uguale la Roadster, lo fa dorato. Quello è un grandissimo baracchino, molto bello. Lo so, ma non c'è la ricezione. Allora, il finalino l'ha cambiato. Insomma l'hanno un po' scacciavitato, l'hanno levato il casino, l'alimentazione è detto che era incasinata, scaldava, arrivava fino a 20 volts e ha bruciato qualcosa. Purtroppo quando ci mette mano gente incompetente per avere un paio di watt in più, una modulazione secondo loro più forte, distruggi tutto, perché poi l'alimentatore scalda, magari parte qualche componente e succedono i guai. Purtroppo io infatti sono contrario a toccargli gli apparati. Ma guarda, io ho preso questo qua che è originale, pulito, anzi che stacco qua, ecco, adesso un po' più basso. Ha cambiato molto Romè? La radio è sempre uguale, il segnale sì, è sceso, se è 9.10, da 9.20 abbondanti si è sceso a 9.10. Già va bene. E quindi niente, uno vuole essere più forte, si prendono a fare un affalima più grosso, una vita, un bel amplificato, c'è bisogno di toccarlo dentro. A me il baracchino che è toccato già perde valore. Ma poi il discorso, finché viene toccato strumentalmente esistono le possibilità, allora quel multicom che c'ha Ginkgo uguale al mio, quello lì c'è un circuito di modifica, c'è un circuito da modificare dalla casa, esiste proprio la modifica della casa e ti tira fuori 15 watt, puoi aprirlo un pochettino, però ci sono, c'è scritto quando tocchi questo devi regolare quest'altro con il coso, con gli strumenti dedicati, non è che ti metti a orecchio, pille e apri, no, bisogna fare delle misurazioni, devi uscire con la tensione di lì eccetera eccetera, e così hai una regolazione ufficiale. Ma se ti metti a toccare come molti toccano, apri la LC, che poi vedi che il baracchino inizia a ricevere male, a sbatterare eccetera eccetera, e crei solo problemi, dice sì, ha migliorato la trasmissione, ma è tutto il resto, c'è fuori di spuria, di sbattere eccetera eccetera. Sì, ma infatti molte persone a quanto sento apri la LC, apri questo, apri quell'altro per uscire più forte, e poi automaticamente o si fa sciogliere chi non lo funziona più, io ti giuro mai, e poi dal 74 non ho mai toccato un baracchino, sempre originale, e mi sono durati sempre un bel tempo. Certo, hai ragione, poi se vuoi fare altri tipi di cose ti cambi completamente l'apparato. Io vedo questi Alan 48, gli tirano talmente il collo che cacchio li senti su 10 canali pure. E che poi non ha senso, cosa ne fatti, a carità. Oh iaia, tutta la mania della forza, ma io dico questo, è come io ho una macchina, ho un 1100, mi cammina tot, non mi piace, lo voglio più grosso, prendo un 2000 e cammina quello di più, lo voglio più forte ancora e prendo un 3000 turbo e buonanotte, ma poi strade qua non ne abbiamo. Ma è inutile avere un 1100 e vai a modificare il motore, a truccarlo, che poi andare nel tempo ti si rovina qualche pezzo, anche di più. Vai piano che sennò pure è un casino. Oh, yeah. Che avanti. Buonasera, ben ascoltati signori, scusate la mia intrusione tutta, diciamo, un po' brusca. Franco da Sorso, ben ascoltati. Ciao, adesso mi sta sfuggendo anche il nome. Comunque dai, ciao Tonino Kawasaki, ben ascoltato, e Roberto, ben ascoltato, avanti Roberto. Ehi, ciao Franco, ben sentito anche a te. E Tonino in compagnia, avanti Tonino per Franco. Ciao Franco, mi hai sentito dopo tanto, che fine avevi fatto? Ti eri messo nel targo? No, negativo Tonino, lo sai che adesso con le libere uscite si esce di più. Ah, di quelle sì. Sì, ma anch'io esco di più, però c'è un fattore, la sera un po' me lo dici col baracchino a trovare qualche amico, qualche passaggio, capito? Invece tu manco quello, vuol dire fare le ore piccolina. No, guarda, ti dico una cosa, io, vabbè, le ore piccoline sì, le faccio anche da altra parte, avevo capito male un'altra cosa, che facevo dire che di porco alla radio, no, quello non lo faccio perché se ci sono entro e non lo pubblico, quando non ci sono vuol dire che io in radio neanche all'ascolto. Avanti Roberto. Stavo parlando proprio di quello, che c'è un sacco di gente, ma tanta, niente che fa l'orecchio di porco, la notte lo usano come ascolto, diciamo, tipo quando uno si ascolta la musica, ti metti di sottofondo le nostre belle o brutte conversazioni che sia, ma se le ascolta. Capo, no, vabbè, questo no, che non, io se ci sono va bene, ma se non ci sono, niente, non ascolto neanche. Accendere la radio, stare ad ascoltare e poi sentire la gente che sta parlando e non poter intervenire mi dà fastidio. Devo dire, qualche volta è capitato anche a me, sto facendo cose che mi interessano di più, tengo acceso la radio e ascolto se c'è la conversazione che magari mi piace ascoltarla, però normalmente quando accendo anche io entro. Sì, allora ok, non stai facendo qualcosa a casa, cioè che sei lì ascoltando e per dire che sei saldando una cosa oppure facendo un'altra cosa e stai ascoltando, allora tutto va bene, ma se no, niente, se sono libero che posso rispondere, devo rispondere. Avanti Tonino, buonasera. Grazie Franco, chi ti ha detto a me, Franco non c'è più, ha lasciato perdere tutto l'apparato e ci sta dedicando a qualche altra cosa più bella. Andare. No, Tony. Tony, quella roba esce bene, sì. Capo, le ho messo anche quel microfono al tavolo, l'MP5, è proprio una canonata. Capo, non avevo dubbi perché io lo usavo con tutti e due, con l'MP4 e l'MP5. A parte che il mio MP4 esce più forte del 5, esce, perché quello è stato modificato con la capsule. Invece il 5 è ancora tutto originale. Sì, ma è un pochettino amaro di smitter, l'hai notato? Sì, quello sì. Vabbè, non è da una radio all'altra, tu se noti, tu ne prendi due, tre radio, se le noti sono tutte diverse. Sì, ce la vuole anche Claudio, questo apparato qua, questo Midland. Ma comunque bellino. È tornato nuovo comunque, tu non lo riconosci più. Sono contento che l'hai aggiustato, io te l'ho detto, se lo vuoi è così, se no lascialo stare, perché volevo aggiustarlo, avevo intenzione di farlo io quel lavoro lì, poi non mi sono più interessato e l'ho messo da parte, come hai visto. Il più perfetto l'avrebbe fatto Roberto, avanti Roberto. Che cosa? Scusa, non ho capito Tony. Allora, il baracchino che ho preso da Franco. Era un po' messo male di carrozzeria e l'ho portato a ferro crudo proprio e poi l'ho rivenecciato. È tornato nuovo. Se c'è un po' di manualità, ho visto quelli che ha fatto Fabrizio, no? Complimenti, più di un professionista, ha risistemato degli apparati un po' delicati, dai, ha fatto un bellissimo lavoro, ha trovato anche il giusto colore, veramente bello, ma se uno c'ha un po' di manualità non è che sia complicato. No, grazie a Dio, mi sono appettato, a me piace fare queste cose qua, quando sono un po' rovinati le riporto a zero e le faccio come Dio comanda, ma tiro. Anche mio nipote di Capita è tornato nuovo. Ma la bomboletta li fai o la compressore? No, la bomboletta non li ho compressore io. Mi metto la mia giusta distanza e ci posso dare anche 4-5 mani, capito, quando faccio asciugare, perché giustamente non posso dare una mano tutta il corpo che ti cola tutto. Qui è perfetto, colato trasparente, è uscito perfetto. Sì, se c'hai mano anche con la bomboletta e riesci a dare la giusta pressione, il giusto movimento, senza esagerare, ho visto anche dei bei lavori, fatti bene. Capa, ho detto vabbè, tu sei del mestiere, giustamente, avessi fatto la cosa più carina. Ah, oh, vabbè, diciamo, ce n'è gente brava che mi fanno anche a me campi. Io non sono di natura verniciatore, ma mi arrangio, io mi occupo di altre cose, però la pistola già la stiamo parlando per verniciare.